vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici, siamo qui stasera per la seconda puntata del Panda Yogico. Ci ritroviamo questo inizio di mese di giugno e diamo innanzitutto un paio di informazioni tecniche di palinsesto. Da questo mese l'orario di inizio della trasmissione sarà alle 20:15 e faremo due puntate nuove al mese, quindi il primo lunedì del mese ci sarà la prima puntata nuova, il secondo lunedì la prima replica, il terzo lunedì la seconda puntata nuova e il quarto lunedì la replica della seconda. E quindi insomma, dopo la prima puntata che pensiamo sia andata bene, raddoppiamo e anticipiamo un po' i tempi. Allora, stasera inevitabilmente non possiamo che cominciare con un pensiero e probabilmente con, diciamo, tutta la puntata che sarà un poco guidata da Franco Battiato, insomma, dalla sua scomparsa. E innanzitutto ci piace, diciamo, in un certo senso ridefinire questa, diciamo, scomparsa, questa morte, che in realtà noi pensiamo e ci piace anche pensare, anche insomma ripercorrendo quella che è stata la sua vita, anche la sua carriera artistica, in particolare ripensando a uno dei suoi film, il film documentario Attraversando il Bardo, che lui non sia semplicemente morto, ma abbia appunto attraversato il Bardo e adesso, o a seconda del livello insomma di sviluppo di consapevolezza che aveva raggiunto tutto nella sua vita di mistico, nella sua vita di seguace di Gurdjieff, abbia, diciamo, un certo senso scelto di ritornare sotto altra forma fisica in questo mondo terreno, oppure sia riuscito ad evolversi verso, diciamo, una forma di vita più spirituale. Abbiamo nominato Attraversando il Bardo, che è appunto un suo film documentario nel quale si descrive, anche con l'intervento di varie figure di monaci buddisti, di lama, di personaggi anche, diciamo, occidentali nel campo della psicologia, della spiritualità, e questo, appunto, questo bardo praticamente sarebbe uno stadio intermedio tra la morte e la eventuale rinascita, ed è ciò che viene descritto nel libro tibetano dei morti, in lingua tibetana chiamato Bardo Todol. E appunto si descrive il percorso che compie la parte spirituale dell'individuo una volta terminata l'esistenza terrena. Quindi c'è appunto un momento subito dopo la morte nel quale, in un certo senso, è raccontato, è descritto in questo testo tibetano, nel quale lo spirito fluttua nello spazio anche del luogo stesso dove è avvenuta, diciamo, la dipartita. E se si è riusciti ad avere uno sviluppo spirituale, diciamo, elevato, che appunto, come dicevamo prima, pensiamo che Franco Battiato sia riuscito a raggiungere, diciamo, si ha consapevolezza di questo passaggio, di questa scelta che riesce l'individuo a fare nel caso di scegliere di reincarnarsi in una nuova forma fisica. E sempre come raccontato in questo libro, chi appunto ha raggiunto un livello molto alto di consapevolezza e di presenza mentale, quindi spirituale, sceglie dove, come e quando ritornare su questa terra. E appunto a noi piace pensare che Battiato sia riuscito a compiere questo percorso, abbia fluttuato per qualche minuto nell'aria e sia riuscito a tornare tra di noi in forma appunto fisica diversa. A tal proposito viene in mente anche un altro film che racconta di questo libro tibetano dei morti e mostra in maniera chiara, esplicita, in parte anche psichedelica, di questo percorso dell'anima, che si chiama il film Enter the Void, del regista francese Gaspard Noé. Ve lo consiglio, quindi chi ha un paio d'ore, due ore e mezza circa da voler dedicare a un viaggio fisico e mentale, consiglio molto questo film, oltre ovviamente a consigliare anche Attraverso il Bardo di Battiato. E quindi, insomma, questo ci dà anche la possibilità, ricordando poi appunto la figura di Battiato, di continuare sul percorso che avevamo iniziato la puntata precedente nel definire cosa è lo yoga. Lo yoga è, oltre a tutto ciò che abbiamo detto la volta scorsa, è libertà. Lo yoga è ampiezza, è spazi immensi da un punto di vista fisico, mentale, concettuale. Lo yoga permette di spaziare, come stiamo facendo noi, dalle tradizioni induiste a quelle buddiste, a quelle, vedremo poi successivamente, anche occidentali, medievali, europee e anche cattoliche. Lo yoga, volendo utilizzare un termine che alle volte fa paura, secondo noi è pura anarchia. Anarchia nel senso più elevato del termine, anarchia non nel senso, diciamo, volgare di puro caos, ma anarchia nel senso di non necessità di avere regole, di avere leggi, di avere qualcuno che ci impone cosa, come e quando fare. Lo yoga è assieme allo yoga tante discipline, tante tradizioni mistiche, spirituali, occidentali ed orientali Questo ci fanno capire, anche Battiato lo ha fatto con la sua vita, con le sue canzoni, che appunto c'è libertà totale, non c'è nessuna entità alla quale dobbiamo dare conto, della quale dobbiamo avere paura, dalla quale dobbiamo ricevere ordini. Noi possiamo fare tutto, siamo tutto e non abbiamo potenzialmente limiti. Tanto è vero che uno dei, cioè no uno, il saluto classico nell'ambito yogico che ci si fa quando ci si incontra è Namaste. Questo termine sanscrito significa saluto il divino che c'è in te. Insomma, questa frase, saluto il divino che c'è in te, è una cosa secondo noi stupenda perché riconosce e si riferisce direttamente appunto alla fiammella divina che è dentro ognuno di noi. E questo ci dà una possibilità, una potenzialità e una libertà totale, perché se è vero che ognuno di noi ha dentro di sé il divino, non ha bisogno appunto di nessuna guida, di nessun limite, ha bisogno solo di consapevolezza, di presenza e di continuità, di essere capace di dare la possibilità a questa fiammella, a questa scintilla divina che è dentro ognuno di, no di noi, di accendersi e di diventare una fiamma più alta e più potente possibile. Ripeto, Battiato con le sue opere, con le sue canzoni, con la sua vita ha dato anche una dimostrazione di tutto ciò e invitiamo quindi anche tanto più a rileggere tutta l'opera di Battiato il più possibilmente in chiave mistica, oltre andando all'aspetto artistico, che è ovviamente notevolissimo, ma lui in ogni sua canzone ha sempre inserito un qualcosa che va al di là. E a tal proposito ci abbiamo deciso stasera di, diciamo, utilizzare l'intermezzo musicale riproponendo un'altra sua opera, una canzone che si chiama Ricerca sul terzo, nella quale viene raccontato tutto il percorso che si compie durante la meditazione. Vi lascio ascoltarla e poi dopo continueremo con due chiacchiere su questo argomento. Buon ascolto, a dopo. Coi palmi delle mani dolcemente stesi sulle gambe, e il busto eretto e naturale, un minareto verso il cielo. Cerco di rilassarmi, abbandonarmi, tanto da non avere più tensioni o affanni. Se fossi entrato in pieno sonno, ma con i sensi sempre più coscienti e svegli, è un grande beneficio, prova il corpo, il cuore, la mia mente, che spesso ai suoi pensieri mi incatena. Somma la vista. ad occhi chiusi, sopra la distanza. E il terzo scoprirai che si espande e si ritrova, dividi la differenza. Abbiamo ascoltato quindi questa opera di Battiato, questa ricerca sul terzo, e appunto chi ha ascoltato ha potuto verificare che viene spiegata passo passo la tecnica, la postura nella quale, che si utilizza per arrivare alla meditazione. Uno però degli aspetti che ci piace di più sottolineare di questa canzone è il riferimento che viene fatto già all'inizio canzone all'Egitto, e ci piace perché, come dicevamo prima, ci dà la possibilità di comprendere ancora di più che quando parliamo di yoga non parliamo di un qualcosa riferito solo all'India, riferito solo all'India di un certo periodo, un qualcosa di esclusivo, ma parliamo di qualcosa che ci fa dire, ci fa, diciamo, modificare un poco il classico detto del ogni mondo è paese. In realtà noi pensiamo che non è ogni mondo è paese, ma è, il mondo è un paese. Ogni mondo è paese perché il paese è unico, è lo stesso, è il funzionamento dell'essere umano a livello fisico, psichico e spirituale è lo stesso dappertutto, nel tempo e nello spazio. L'uomo è stato e ha funzionato in passato allo stesso modo nel quale funziona oggi. Ciò che cambia è la consapevolezza, e per noi occidentali, che nel tempo è diventato un aspetto importante, la capacità tecnica, ma questa noi la riteniamo, diciamo, lo riteniamo un aspetto secondario. Quindi, diciamo, riferimento all'Egitto. E questo riferimento all'Egitto ci piace per due motivi: innanzitutto perché appunto collega l'antico Egitto con l'ambito indiano, e ci, appunto, ci suggerisce che le tecniche di meditazione erano già all'epoca le stesse, o comunque molto simili, se non diverse solo per vari alcuni aspetti tecnici, anche riferite magari alla vita sociale organizzata in maniera diversa in ognuno dei luoghi tra Egitto ed India. Però ci piace il riferimento a Egitto anche per un altro motivo, e questo ci riporta più verso casa nostra, ci riporta in Occidente, in Europa, ci riporta al Medioevo. Ci riporta al Medioevo perché gli antichi egiziani chiamavano la loro terra Kemia. Kemia significa la terra nera, o meglio significa terra nera. La terra nera invece era il termine utilizzato, era alchemia. Non so se a qualcuno questa alchemia può già suggerire il termine alchimia, che praticamente sappiamo che era ricomprendeva l'arte magica appunto nel periodo medievale, qui in Europa, molto anche in Italia abbiamo avuto vari esponenti famosi, importanti, uno su tutti Giordano Bruno, che sappiamo alla fine che ha fatto, e questo ci fa capire tanto più ciò che dicevamo prima, che lo yoga è libertà ed anarchia, proprio perché Giordano Bruno incarnava la libertà nel senso più alto, ed è stato appunto fisicamente eliminato da chi la libertà sappiamo che ha sempre cercato di limitarla e di, diciamo, di di portarla verso i propri interessi, verso il proprio ambito ristretto. L'Inquisizione, la Chiesa Cattolica ha fatto ciò che ha fatto di Giordano Bruno e che ben sappiamo. Quindi diciamo, Alchemia significava la terra nera. Questo ci ricollega anche al termine l'opera in nero. L'opera in nero, parlando di alchimia, è uno dei passaggi di quella che viene detta la grande opera, che appunto si può incontrare sia nell'alchimia che nello yoga, che praticamente sono le varie fasi dello sviluppo dell'individuo, della persona, partendo dall'aspetto fisico, passando poi a quello psicologico per arrivare a quello spirituale. Nello yoga ci sono vari passaggi che partono dall'avere un'iniziale consapevolezza di se stessi, passare poi a asana, quindi alle posizioni, che è la parte che più conosciamo noi in Occidente dello yoga, per poi attraverso varie fasi arrivare alla meditazione e all'unione con diciamo, lo spirito assoluto, l'universo. Lo stesso nell'alchimia. C'erano queste varie fasi di questa grande opera che era appunto strutturata in quattro fasi, della quale la prima era proprio l'opera al nero. Al nero perché era il colore riferito alla materia, allo stato più grezzo, alla materia che inevitabilmente anche da un punto di vista fisico non possiamo non far riferimento diciamo, al prodotto di scarto del nostro organismo, agli escrementi. Che è qualcosa del quale ci liberiamo, è appunto lo scarto, ciò che non ci serve più dopo che noi ci siamo nutriti fisicamente e mentalmente e abbiamo, diciamo, utilizzato le energie nella maniera giusta. Lo scarto, appunto, è assimilato al colore nero, quindi all'opera al nero, nella quale si riesce a superare questo primo step, questo primo scoglio nell'evoluzione, nella consapevolezza, per poi andare verso i passaggi successivi che sono contraddistinti poi dal colore giallo, dal colore rosso e dal colore bianco, che sono colori che ritroviamo anche nella tradizione appunto yogica. Per chi ne ha sentito nominare, sono colori associati ai chakra, sono colori associati a vari aspetti del funzionamento del nostro corpo, della nostra psiche, e sono colori che appunto portano l'individuo, l'essere umano, verso un potenziale sviluppo armonico dell'intera individualità, dell'intera persona. Tutto ciò, appunto, stasera, come dicevamo, ci ha portato a voler dedicare tutta la puntata a queste riflessioni, un poco suggerite da Battiato, un poco da altri spunti, però vogliamo sottolineare ancora una volta quanto lo yoga dia la possibilità di comprendere di essere tutto e tutti, di non avere limiti, di non avere timori. Ecco, la cosa fondamentale che ci può insegnare lo yoga è proprio riuscire a superare le proprie paure. Riuscire a utilizzare il nostro corpo in una modalità che non facciamo abitualmente, cercando di superare i timori innanzitutto di farci male, di cadere, di non stare in equilibrio. Una volta superato questo livello di paura, che è quello riferito agli asana, alle posizioni yogiche, possiamo trasportare questa stessa modalità di azione sul piano mentale. Non avere paura delle nostre idee, sapere che tutti siamo degni di avere le nostre idee, tutti siamo capaci di averne di alcune ritenute, diciamo, ritenute di valore da se stessi e dagli altri. Non c'è nessuno che è inferiore, che è meno intelligente di altri. No, dobbiamo essere solo capaci di liberarci dai timori. Liberarci da noi stessi, dalla gabbia che ci creiamo da soli. Lo yoga fa paura alle istituzioni, e fa paura ancora oggi alla Chiesa Cattolica. Qui anche ci torna in mente il famoso padre Amort, l'esorcista della Chiesa Cattolica, che anni fa dichiarò in maniera esplicita che lo yoga era uno strumento di Satana, e come dicevamo prima, ovviamente per lui è uno strumento di Satana, in quanto per lui un essere umano, un individuo libero, è forse una maledizione, forse è ciò che non va bene alla Chiesa, è ciò che non vuole sottostare al potere, alle indicazioni. Tutto questo discorso, che stasera insomma, ha preso anche in maniera inaspettata vita, è riferito comunque non solo all'ambito religioso, ma all'ambito sociale, alla vita quotidiana di ognuno di noi, quindi a una vita che può essere una vita politica tutti i giorni, una vita consapevole e cosciente di ciò che possiamo fare e possiamo essere. È vero che nello yoga ci sono i guru, ci sono le guide spirituali, ma è anche vero che non bisogna essere schiavi, nello yoga come nella vita al di fuori dello yoga, di nessuna guida, di nessun maestro. Queste figure sono fondamentali solo per darci la consapevolezza e la coscienza che possiamo essere ciò che vogliamo. Non dobbiamo noi farci limitare, non dobbiamo farci guidare, né loro devono, con vari tipi di violenza, guidarci e sopraffarci. E così pensiamo di aver chiuso degnamente questa seconda puntata, e quindi, come dicevamo prima, ci rivedremo fra 2 settimane per la seconda puntata del mese di giugno. Vi lascio alla chiusura con l'ormai riutilizzata L'era del cinghiale bianco ancora di Battiato, e un augurio di buona serata e buon viaggio a chi è in ascolto. Buonanotte. Estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Sera, studenti di Damasco, vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.